Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera a tutti e tutte. È iniziato il Festival della Scienza di Genova e già in questa puntata ne parleremo, e si è appena conclusa la Fiera del Libro di Francoforte. Da lì siamo appena tornati, ma ascoltiamo insieme i titoli di questa puntata. Siamo stati al Salone del Libro di Francoforte, dove si è delineato l'orizzonte futuro dell'editoria elettronica. Vi raccontiamo tutte le novità. Uno studio italiano conferma che la dieta mediterranea protegge dai tumori e dalle malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Anche nel nostro paese, però, la pasta e la pizza sono sempre più spesso rimpiazzate dagli hamburger. È iniziato il Festival della Scienza di Genova e Mebius comincia a raccontarvi i primi eventi di questa sesta edizione. I parchi scientifici. È qui che le imprese, ma anche i singoli giovani ricercatori, possono trovare le condizioni adatte per sviluppare le proprie idee. Grande festa vicino a Bologna per i 25 anni del radiotelescopio Vuel by Eye. Tracciamo il bilancio dell'attività svolta con un pianista di sottofondo. La testata di Zidane a Materazzi. Come quel fattaccio dei mondiali si specchia nei nostri neuroni. I viaggi della bussola, l'oggetto che arrivò da Oriente e sconvolse l'Europa. Ascoltate questo suono, sentite. Ecco, sentite che c'è un verso preciso, come un bip, un qualcosa di forte, ogni tanto. Bene, comunque adesso non vi dico subito di che si tratta, vi dico però che l'ho registrato alla Fiera del Libro di Francoforte la scorsa settimana. È la fiera libraria più grande del mondo, con 60 anni di storia. Cosa vuol dire che è la più grande? Beh, potrei certamente parlarvi delle sue dimensioni, 8 padiglioni di una grandezza variabile tra i 4.000 e 7.000 metri quadri, però questo probabilmente non dice più di tanto. Allora è meglio parlare di libri e tutto, secondo me, diventa più chiaro. E parliamo di libri scientifici. Anche a Francoforte ci sono le solite stradine, come in tutte le fiere, che sui lati hanno gli stand come case. Ho preso una di queste stradine, sulla destra case editrici di anatomia e sulla sinistra case editrici per dentisti. In uno stand dentistico, definiamolo così, ho trovato 2 ripiani che in pratica erano dedicati ai molari. Forse così comincia ad esservi chiaro cosa significa essere la più grande fiera libraria del mondo. Ecco, sentite ancora il suono, ma poi ne parliamo, non dubitate. A Francoforte si incontrano i testi più inconsueti che noi si possa immaginare, anche quelli del proprio paese. L'edizione del CNR, per esempio, il nostro Centro Nazionale delle Ricerche, hanno un loro piccolo spazio qui e potete trovare, vi leggo il titolo del libro, Rizzate il gonfalone della Santissima Crociata, sottotitolo L'idea di crociata in Santa Caterina da Siena. Guardate che io questo testo l'ho sfogliato, vi assicuro che oltre ad essere un evidente prodotto di una ricerca molto mirata, è anche un libro pieno di storie, aneddoti assolutamente affascinanti. Questo per dirvi che non si tratta, insomma, di libri che esprimono follie da ricerca pura e un po' maniacale. Parliamo di psicologia, per esempio. C'è un 60% di testi che, pur arrivando da tutto il mondo, si propone con trattazioni sostanzialmente analoghe, e c'è poi un 40% che presenta forti, stimolanti differenze, perché, non so, studiare il disagio dell'età evolutiva in Olanda non è la stessa cosa che farlo a Calcutta, no? C'è quindi un grande patrimonio conoscitivo e culturale in genere che a Francoforte è lì in mostra sui ripiani di migliaia di librerie. Ma cosa facciamo? Andiamo tutti a Francoforte ogni anno e poi stiamo lì qualche mese a leggere i libri? Non si può, ovviamente. Allo stesso tempo, pensate a questo, una casa editrice indiana o spagnola e anche forse statunitense non può minimamente pensare di inviare testi in tutto il mondo. Ci sono senz'altro studiosi o appassionati di tematiche, torniamo a quell'esempio, psicologiche, che vogliono sapere qualcosa sull'età evolutiva, degli studi sull'età evolutiva come avvengono in tutto il mondo. Ci saranno in ogni paese, 400 qui, 500 là, 150, però raggiungere inviando testi nelle librerie è assolutamente escluso. Oggi la rete consente di comprare a distanza e ricevere via posta, questo è certamente stato un fatto molto importante, però bisogna pur stamparli, no? Prima di inviarli. Ecco allora che si delinea all'orizzonte il libro elettronico. Libri scaricabili dalla rete come file leggibili sul monitor. Ma ci sono già realizzate anche fotocopiatrici che si mangiano il file e vi danno un libro rilegato a un costo che può essere la metà di quello attuale. Probabilmente in un futuro vicino, vedrete, le avremo nei quartieri, nei centri fotocopie che già ci sono. Oppure, ecco, sentite questa voce. È quella di Madeleine McIntosh, responsabile dei contenuti di Amazon. A Francoforte ha spiegato come funziona Kindle e qui sta parlando di come è previsto il sistema di pagamento con carta di credito. Kindle è un lettore di libri in formato digitale, grande come un libro tascabile, con uno schermo assolutamente leggibile anche in pieno sole. Negli Stati Uniti c'è già. Quell'editoria specializzata di cui dicevamo prima può trovare in strumenti come Kindle quei costi bassi di cui ha bisogno. Ma attenzione, sono tanti i libri in un paese come il nostro che vendono 3.000 copie. Poi vanno esaurite, cosa succede? L'anno dopo ne chiedono 200, ne chiedono 300 e sono tirature assolutamente insostenibili. Con la versione elettronica invece la vita del testo si prolunga. Ci sono infine tutti i libri, un oceano, stampati prima degli anni 80 del secolo scorso, quando i computer sui tavoli non c'erano. Di quelli non ci sono i file elettronici e allo stesso tempo messi tutti insieme rappresentano una domanda enorme. Torniamo al nostro suono e adesso... È una macchina per fotografare le pagine dei libri e tradurle in file. È la macchina per scansioni più veloce al mondo, presentata a Francoforte. Ogni bip che sentite è una pagina scansita, produce circa 2.000 pagine in un'ora, ad occhio e croce circa 6 testi di saggistica da 300 pagine l'uno. L'era del libro digitale è quindi assolutamente iniziata. Sappiamo tutti, no, cos'è la dieta mediterranea? È quello che sostanzialmente mangiamo noi, o no? Beh, insomma, la dieta mediterranea fa bene, però noi non è che... Beh, ascoltate Margherita Fronte. Parliamo questa sera di dieta mediterranea perché sulla rivista di medicina British Medical Journal è uscito un importante studio italiano che ha analizzato i benefici di questo regime alimentare nella prevenzione di malattie importanti come i tumori, le malattie cardiovascolari e anche il morbo di Parkinson e il morbo di Alzheimer. Ci illustra i risultati di questa ricerca uno degli autori. Buonasera e benvenuto a Francesco Sofi. Buonasera. Francesco Sofi è ricercatore nutrizionista all'Università di Firenze. Allora, abbiamo detto malattie importanti. Per prima cosa diamo le cifre. Sì, la dieta mediterranea riduce il rischio di mortalità del 9%, di incidenza di malattie cardiovascolari del 9%, di incidenza o mortalità per tumori del 6% e soprattutto in maniera molto importante per la prima volta di incidenza di malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer del 13%. Ricordiamo che le malattie che abbiamo citato sono anche in testa alla classifica per le cause di morte, soprattutto nei paesi più ricchi e che sempre più lo saranno. Uno studio dell'OMS di un paio di anni fa calcolava che nel 2030 i tumori uccideranno 11 milioni e mezzo di persone ogni anno in tutto il mondo e le malattie cardiovascolari oltre 23 milioni. Lei ha sottolineato l'elemento di novità soprattutto riguardo al morbo di Parkinson e al morbo di Alzheimer. C'è la possibilità di individuare qualche meccanismo, qualche motivo per cui la dieta mediterranea fa diminuire l'incidenza di queste malattie? Sì, diciamo che i meccanismi che ne sono a conoscenza al momento sono meccanismi principalmente di tipo antiossidante e di tipo antiaterosclerotico, che sono quelli poi meccanismi benefici a favore delle malattie cardiovascolari, per esempio. La dieta mediterranea è in grado di apportare una notevole quantità di vitamine antiossidanti o di sostanze antiradicali, che sono presenti principalmente anche nell'olio d'oliva o nel vino rosso, che sono in grado quindi di determinare una possibile protezione verso malattie neurodegenerative come per esempio l'Alzheimer e il Parkinson. Già in passato dobbiamo dire però che altri studi avevano messo in luce i benefici della dieta mediterranea. Che differenza c'è fra le vostre analisi e le ricerche precedenti? Sì, diciamo che la nostra analisi è un'analisi particolare perché è andata a evidenziare diciamo, sistematicamente tutta la letteratura sull'argomento e attraverso un'analisi statistica chiamata meta-analisi abbiamo potuto analizzare globalmente tutti gli studi che sono presenti in letteratura traendone un risultato unico. La meta-analisi ha analizzato 12 studi, se non sbaglio. Sì, 12 studi. Per un totale di oltre 1,5 milioni di soggetti. Sì. Diciamo che gli studi globalmente andavano ad analizzare circa 1,5 milioni di persone, sì. Ha analizzato l'importanza del regime alimentare anziché dei singoli alimenti di questa dieta. Sì, sì, sì, la novità è proprio questa, cioè il fatto di trovare un punteggio di aderenza a questo pattern alimentare della dieta mediterranea, non soltanto gli studi che andavano a evidenziare per esempio l'olio d'oliva o il vino rosso, globalmente la dieta presa come unicum. E quindi anche eventualmente le diverse interazioni fra i vari alimenti, insomma. Sì, perfetto, sì. Quello che avete visto è che quindi maggiore è l'assiduità con cui si segue la dieta mediterranea e maggiori sono i benefici. Allora a questo punto ho due domande. Innanzitutto, in che cosa consiste esattamente la dieta mediterranea? E poi, in seconda battuta, se gli italiani la seguono ancora? Allora, diciamo che in che cosa consiste è una domanda molto difficile da rispondere, perché non vi è una vera e propria definizione di dieta mediterranea. Si può delineare una linea, un profilo di stile di vita mediterranea più che altro, che è delle abitudini alimentari tipiche dei nostri paesi, dei paesi che si affacciano nel bacino mediterraneo e che hanno come componenti fondamentali alcuni alimenti, tra cui frutta, verdura, il pesce, un basso consumo di carni rosse, moderato consumo di vino rosso principalmente ai pasti e carboidrati a pranzo e a cena. E la cosa che è preoccupante è che negli ultimi 20 anni, diciamo più o meno, nei nostri paesi, anche del Mediterraneo, si sta osservando un trend negativo di aderenza alla dieta mediterranea, cioè stiamo peggiorando le abitudini alimentari verso una progressiva occidentalizzazione. Cioè ci stiamo un po' americanizzando, insomma. Sì, se possiamo dire così, sì. C'è una elevata quantità di proteine, principalmente di tipo animale, il che nella dieta degli anni 50, alla quale la dieta mediterranea si riferisce, vi era in maniera minore. Grazie Francesco Sofi, buon lavoro. Grazie mille a lei. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siete pronti? Siamo al nostro gioco, il quiz. Gioco quiz che riguarda i gatti. Conosciamo tutti le fusa, manifestazione di contentezza più o meno intensa del gatto o gatta che sia. Da che cosa sono prodotte le fusa? Prima risposta, non si sa. Ci scriverete ignoto. Seconda, dalle corde vocali, ci scriverete corde. Terza e ultima possibilità, dai muscoli pettorali e ci scriverete pettorali. Dove? E si tratta sempre del solito SMS 349-238-6666, 349-238-6666. Il libro che si vince coerentemente è Il gatto a test di Giulia Bianconi, editore Alfa Test. In collaborazione con IBS.it. Festival della Scienza di Genova, allora, ve l'ho preannunciato in apertura di trasmissione, è arrivato alla sesta edizione ed è ormai diventato il festival più importante in Europa sui temi scientifici. Chiara Albicocco e Maurizio Melis sono a Genova e hanno iniziato a seguire appunto questo festival. C'è il Festival della Scienza a Genova. L'unico che non sembra farci caso, ma chissà, forse in fondo anche lui è lì per questo, è il fisarmonicista, lo sentite sullo sfondo, mentre macina note tra l'eccitato e il nostalgico. È lui la nostra prima immagine del festival di quest'anno. E infatti si è messo a suonare proprio lì, dove una galleria che amplifica le note dello strumento sbocca sulla piazza su cui si affaccia il Palazzo Ducale. Il cuore pulsante della manifestazione, insomma il luogo che ospita le Lectio Magistralis e le conferenze più impegnate. Poi però sparso un po' ovunque per la città c'è il resto dell'organismo di questa grande kermesse che è il Festival della Scienza di Genova e che ormai è alla sesta edizione. Sì, Maurizio, in effetti, e chi c'è stato lo sa bene, durante il festival Genova è letteralmente assediata da conferenze, spettacoli, mostre e dal pubblico, che l'anno scorso ha toccato le 250.000 presenze nelle due settimane di durata dell'evento, che quest'anno si concluderà il 4 di novembre. Beh, insomma, è il più grande festival della scienza d'Europa. Infatti è proprio così, i numeri del pubblico di quest'anno ovviamente ancora non li conosciamo perché il festival è solo all'inizio, ma si contano oltre 300 eventi sparsi per tutta la città. Cosa dici, facciamo un giro per i carruggi? Andiamo, va, guida tu. Ma dov'è che siamo? Shh, parla piano. Siamo nella sede della Borsa di Genova, dove c'è un'installazione molto suggestiva, guarda. Il titolo della mostra è Luminescenze e si tratta in un certo senso di un auspicio, nel senso che l'idea è che un giorno saremo in grado di sfruttare la bioluminescenza come illuminazione. Così è nata l'idea di questa installazione, dove c'è un rettangolo di pavimento illuminato, mentre tutto il resto della stanza è completamente al buio. E c'è un grande schermo su cui un nugolo di lucciole, per così dire virtuali, sono delle lucine minuscole, si muovono disordinatamente. Appena qualcuno però cammina su quel rettangolo luminoso, ecco che le lucciole si raggruppano, seguendone i passi. È molto suggestivo, vero? Beh sì, è bello, però sta per cominciare la conferenza di apertura a Palazzo Ducale. Insomma, mi spiacerebbe perderla. Va bene, dai, corriamo a Palazzo Ducale. Quanta gente, cosa succede? È una protesta. Ah, ecco, guarda, evidentemente i genitori degli studenti di Genova, insomma, quelli lì arrabbiati per la riforma scolastica, devono aver deciso di sfruttare un po' la visibilità che dà il festival per farsi sentire. Vedi lo striscione? C'è scritto che non ce l'hanno col Festival della Scienza. No, no, certo, hai ragione, non ce l'hanno col festival, ce l'hanno col ministro della pubblica istruzione. Però ti ricordo che siamo qui per la conferenza, insomma, dobbiamo andare. A proposito, su cos'era la conferenza? Allora, il titolo è La diversità è il fulcro della storia umana e la conferenza la tiene Luigi Luca Cavalli Sforza, il padre della genetica delle popolazioni. È lui che, come dire, ha inaugurato gli studi sul genoma umano che hanno permesso di tracciare le grandi migrazioni con cui l'Homo sapiens, a partire dall'Africa, ha colonizzato il pianeta. Prima l'Europa e poi attraverso l'Asia anche l'Oceania e l'America, quest'ultima passando dallo stretto di Bering circa 10.000 anni fa. Il tema di quest'anno infatti è la diversità biologica, culturale. Insomma, visti i recenti fatti di razzismo, la scelta degli organizzatori, che risale a un anno fa, si è rivelata a dir poco profetica. Ma ascolta. La realtà è che i primi strumenti fatti di pietra compaiono un po' meno di 3 milioni di anni fa, di nuovo in Africa. Bisogna ricordare che praticamente tutte le cose importanti della nostra evoluzione sono avvenute in Africa fino a poco tempo fa. Quando sento dei razzisti che considerano gli africani come esseri inferiori, devo decidere che i razzisti sono degli esseri inferiori. È l'unica cosa che posso dire. Certo che una giornata al festival è proprio stancante. Io però un'ultima cosa te la vorrei proporre. Al Teatro della Tosse va in scena la prima del Candido, che è un adattamento teatrale del celebre romanzo di Voltaire, sottotitolo Viaggio tragicomico nel migliore dei mondi possibili. Pare che sia un bello spettacolo, faccia un po' ridere ma anche riflettere. Che ne dici, andiamo? Andiamo. Le nozioni metafisiche provengono soltanto dai sensi. Come si potrebbe misurare un cerchio o un triangolo senza avere mai visto un cerchio o un triangolo? E come farsi un'idea imperfetta dell'infinito se non costringendo i limiti a retrocedere? Bene, Chiara, giù il sipario, anche noi ce ne andiamo a dormire. Io però direi di lasciare gli ascoltatori con quella tua intervista di oggi pomeriggio al paleontologo Michelangelo Bisconti, mi pare. Sì, lui ci ha parlato delle culture degli animali e ha scritto anche un libro dal titolo L'uomo è l'unico sapiens. Ecco, il tema del festival, lo hai ricordato anche tu prima, è la diversità. E qui il punto è, la nostra specie è davvero l'unica che possiede una qualche forma di cultura? E questa è la prima domanda che gli ho fatto e senti che mi ha risposto. Io ritengo che esista la possibilità di concepire la cultura in maniera molto generale e in modo tale da poter utilizzare una definizione in grado di rendere conto anche di tutta una serie di repertori comportamentali che si vedono negli altri animali. Per cui mi allineo con tutta una serie di studiosi che ritengono che appunto l'uomo non sia l'unico portatore di cultura, ma anche altri animali siano in grado di trasmettersi informazioni in maniera culturale. All'interno del concetto di cultura c'è sicuramente il concetto di comunicazione, di creatività. Lei durante la conferenza ha fatto degli esempi. Partiamo dalla comunicazione. Quali sono gli animali che hanno saputo comunicare e quindi sviluppare in un certo senso un linguaggio? Quasi tutti gli animali sono in grado di comunicare qualcosa. Utilizzano, diciamo, dei sistemi di comunicazione più o meno differenziati. Chi usa linguaggi, tra virgolette, passatemi il termine linguaggio, non parliamo di veri e propri linguaggi, ma di sistemi di comunicazione per esempio basati sui colori, che sono dei sistemi di comunicazione completamente determinati dalla genetica, non sono utilizzati in maniera intenzionale. Oppure c'è chi usa linguaggi corporei, diciamo, dei sistemi di comunicazione basati sui movimenti del corpo. Ci sono invece altri animali che hanno evoluto nel corso appunto della loro storia dei meccanismi di comunicazione un pochino più complicati, che ricordano almeno alcuni aspetti del linguaggio umano. Per esempio possiamo citare tra i cetacei, per esempio i grandi cetacei misticeti, cioè le balene, le balenottere, le megattere e così via, che fanno uso di suoni perché possiedono appunto un repertorio vocale sonoro molto, molto complesso e molto esteso, e sono in grado di organizzare nel tempo i loro materiali sonori in modo tale da costruire delle sorte di frasi, tra virgolette, sonore, che probabilmente utilizzano per trasmettersi informazioni. Sfortunatamente non sappiamo cosa si dicano con queste sorte di canti. E poi ci sono anche altri animali, per esempio tra i primati, un esempio abbastanza sconcertante di uso di meccanismi di comunicazione che ricordano un po' quello umano, sono, appunto citiamo i cercopitechi, che almeno in alcuni gruppi hanno sviluppato dei suoni ai quali attribuiscono arbitrariamente dei significati. Per esempio ad un determinato tipo di suono è assegnato per esempio il significato presenza di aquila nei dintorni. Ecco che chi lo ascolta corre subito a nascondersi sotto i cespugli. A un altro suono è assegnato arbitrariamente il significato presenza di serpenti nei dintorni. Quindi chi lo ascolta va a nascondersi sugli alberi. Quindi ecco, si tratta di meccanismi di comunicazione che possono essere estremamente semplici in alcuni animali, ma anche estremamente complessi in altri. Questo per quel che riguarda la comunicazione. Poi invece ci sono degli animali proprio creativi. Lei ha fatto degli esempi simpatici sui macachi, sulle megattere, insomma, ci racconta. La giovane femmina Imo era una macaca del Giappone vissuta ormai più di 30 anni fa, che faceva parte di questo gruppo di macachi che vivevano in uno zoo safari nell'isola di Koshima. Ed è una macaca che ha imparato di punto in bianco a lavare le patate che le venivano gettate dagli operatori dello zoo e che cadendo sulla spiaggia si insabbiavano. Da allora le macache del suo gruppo hanno imparato ad imitarla e tutte le sue discendenti, tutte le macache che fanno parte del gruppo in cui viveva Imo, oggi lavano le patate. E in questo modo evitano di farsi male ai denti, evitano di mangiare sabbia e così via. Ci sono anche molti altri animali che fanno uso per esempio di oggetti in maniera molto creativa. Ci sono dei corvi della Nuova Caledonia che sono stati intensamente studiati negli ultimi anni e che sono in grado di foggiare degli oggetti naturali come bastoncini o piume e dar luogo a degli oggetti allungati a forma di uncino. Con questi uncini vanno a cercare insetti che si nascondono sotto cortecce o sotto terra. E sperimentalmente si è osservato il fatto che i corvi che utilizzano questi strumenti riescono a ottenere più cibo rispetto a gruppi di corvi che invece non fanno uso di questi strumenti. Senta, concluderei con un aneddoto che lei ha raccontato, l'aneddoto delle megattere australiane che hanno imparato il dialetto di un'altra popolazione, possiamo dire così, ce lo spiega? Sì, è una cosa che veramente quando è stata pubblicata nel 2000 ha sconvolto veramente la comunità scientifica. È andato così il fatto. Nel 95 un gruppo di studiosi stava osservando un grosso gruppo di megattere, si parla di oltre 80 megattere, che abitavano nell'Australia sud-orientale. Queste megattere erano portatrici di un loro repertorio vocale, una sorta di dialetto sonoro. Bene, nel 96 attraverso l'uso di microfoni subacquei è stato possibile osservare, anzi ascoltare, l'arrivo di due megattere che invece portavano un dialetto diverso, un dialetto dell'Oceano Indiano, di quel gruppo di megattere che va poi a riprodursi nelle acque dell'Australia sud-occidentale. Bene, nel 98 praticamente tutte le megattere del gruppo nel quale le due megattere indiane erano andate a collocarsi utilizzavano il dialetto delle due intruse. Quindi tutte le megattere, diciamo, del gruppo che ha accolto le due intruse ha acquisito il nuovo dialetto e lo ha fatto proprio. Non sappiamo bene perché, non sappiamo se è stato imposto, se è stato semplicemente accolto. Semplicemente registriamo questo fatto, che è un esempio veramente, a mio avviso, abbastanza forte di trasmissione culturale di informazioni. E da Genova per questa puntata è tutto. Per chi vuole andarci, ricordo che il festival chiude il 4 novembre. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La Fondazione Cotec è una struttura dedicata allo studio e alla promozione dell'innovazione. In questa puntata iniziamo una serie di servizi che nascono dalla loro attività di indagine in questo campo. Parliamo questa sera di parchi scientifici ed è Barbara Galavotti chi vi racconta di che si tratta. Si chiamano parchi scientifici e in comune con i parchi naturali hanno un po' il fatto di essere una sorta di territorio protetto. In questo caso un territorio dove gli interessi di imprese, ricerca e amministratori pubblici possono convergere e dove nascono nuove attività ad alta tecnologia, che sono poi amorevolmente accudite nei primi passi. In Italia ne esistono circa 40 e ognuno ha qualche caratteristica specifica, sia nella sua vocazione che nella sua struttura. Però come funzionano e quanto funzionano? Proviamo a capirlo con Fabrizio Conicella, direttore del Parco Biotecnologico del Piemonte. Buonasera. Buonasera. Allora, come al solito, quando parliamo di strutture di frontiera, comincerei con il cercare di capire di cosa si tratta e dare una definizione. Cos'è un parco scientifico? Beh, un parco scientifico è in realtà un integratore, è un ente che solitamente tenta di esaudire i bisogni di crescita di imprese innovative, con particolare attenzione per le piccole, piccolissime, come tentando di facilitare il loro sviluppo. Ponendosi un po' su un particolare territorio come un'area che offre servizi e infrastrutture prima o poi assenti su una o più particolari tecnologie ritenute strategiche per la crescita. Chi è che collabora a un parco scientifico? Cioè, quali sono le istituzioni o le strutture che decidono di creare un parco scientifico? In particolar modo in Italia spesso e volentieri i parchi scientifici sono emanazione e concretizzazione di politiche regionali per lo sviluppo, quindi al loro interno operano in forma diversa o le regioni o le camere di commercio, spesso e volentieri anche le università, più raramente delle imprese. Si tratta quindi di organismi che a seconda dei territori, del momento storico e delle tecnologie che si intendono sviluppare possono assumere una struttura organizzativa completamente diversa e possono coinvolgere attori diversi. Allora, facciamo qualche esempio pratico. Perché un'impresa si rivolge a voi? Come si comporta un'impresa all'interno del parco scientifico? Beh, dipende se l'impresa è grande o piccola. Se un'impresa è piccola nel parco scientifico, soprattutto se l'impresa si occupa di alta tecnologia, trova un ambiente in cui è più facile crescere. Più facile crescere per tre ordini di motivi. Il primo è che il parco è in realtà un gigantesco incubatore, quindi facilita tutta una serie di passi che nei primi anni di vita di un'impresa spesso sono critici, a volte fatali. Il secondo motivo è che all'interno del parco la vicinanza di infrastrutture di ricerca, di laboratori attrezzati e di momenti di socialità facilita non solamente l'interazione tra imprese e centri di ricerca, ma abbassa i costi di gestione. Le imprese non devono sostenere grossi investimenti perché gli investimenti sono sostenuti dal parco che li condivide tra più utenti. Il terzo motivo è che all'interno del parco possono essere identificate più facilmente delle imprese partner, non solamente partner tecnologici ma anche partner finanziari. Spesso i parchi scientifici sono la sede anche di operatori finanziari di rischio. Nel caso di una grande impresa invece l'interesse a lavorare con un parco può essere identificato o perché all'interno del parco trova facilmente imprese medio-piccole con cui lavorare. Noi ci occupiamo tendenzialmente di biotecnologie, nel settore biotecnologico moltissime innovazioni vengono da imprese medio-piccole, mentre le grandi imprese, le multinazionali tendenzialmente possiedono la competenza per lo sviluppo e la conoscenza del mercato. La seconda motivazione è che all'interno del parco scientifico i contatti con i centri di ricerca possono assumere delle forme innovative come quelle dei laboratori misti impresa-università che aiutano e supportano in modo sinergico la vita di una grande impresa. Un terzo motivo può essere anche più semplicemente che all'interno di un parco scientifico una grande impresa può identificare degli spazi che hanno, dal punto di vista dei costi, dei vantaggi rispetto agli insediamenti stand alone al di fuori del parco. Quindi pensiamo a un giovane ricercatore, magari un neolaureato che ha un'idea, viene da voi e vuole in qualche modo trasformarla in impresa. Cosa succede? Beh, dipende se l'idea che viene presentata è già confezionata per poter diventare impresa o se ha bisogno ancora di un periodo di valorizzazione. Nel caso in cui sia già confezionata per diventare impresa, spesso e volentieri i parchi scientifici possiedono al loro interno dei percorsi di incubazione e degli incubatori, cioè delle aree attrezzate per ospitare imprese neonate. In questo caso il parco supporta la nascita dell'impresa e presenta all'impresa eventuali capitalisti di rischio. Nel caso in cui l'idea non sia ancora pronta a essere trasformata in impresa, il parco può aiutare il giovane ricercatore sia a identificare il percorso che poi porta all'impresa, sia in casi specifici in cui esista un interesse diretto, anche collaborare col giovane ricercatore in una fase di ricerca applicata che può sfociare o in una nuova impresa o in un'attività di trasferimento tecnologico. Grazie Fabrizio Conicella, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Questo è il rumore dell'antenna di un radiotelescopio quando si mette in funzione. Se aveste un radiotelescopio che funziona da 25 anni, in questa ricorrenza, non fareste una festa? Io dico di sì, e infatti è successo a Bologna, e lì per noi c'era Marco Boscolo. Allora, siamo a Medicina, in provincia di Bologna, con in sottofondo Patrizio Fariselli, storico tastierista degli Area. Sono in compagnia di Luigina Ferretti, direttore dell'Istituto di Radioastronomia di Medicina. Siamo qui perché oggi compie 25 anni la parabola VLBI, una parabola che serve per fare radioosservazioni, una parabola che ha 25 anni, ma a che cosa serve? Questa parabola serve a osservare il cielo in onde radio. Le onde radio sono delle onde che non si vedono con gli occhi, ma vengono emesse dai corpi celesti per dei fenomeni naturali. Questa antenna rivela questi deboli segnali cosmici e come antenna non è utilizzata da sola, ma viene utilizzata in collaborazione con altre antenne simili che sono sparse in tutta Europa, secondo questa tecnica VLBI che le dà il nome. La tecnica VLBI consiste nel fatto che le antenne osservano tutte simultaneamente il cielo. Queste antenne non sono collegate tra di loro da dei cavi, però i segnali registrati da ciascuna antenna vengono mescolati successivamente in modo tale da dare il segnale globale relativo a tutta questa rete di radiotelescopi. In che tipo di frequenze? Sono frequenze radio, come dicevo prima, quindi hanno lunghezze d'onda che vanno dai alcuni centimetri a pochi centimetri, sono onde centimetriche cosiddette, che corrispondono a frequenze di 1000 MHz fino a 10.000 MHz. E che tipo di oggetti si osservano in queste frequenze? Praticamente gran parte degli oggetti celesti emettono onde radio per un fenomeno che non è dovuto al calore come la luce. La luce viene emessa dai corpi per effetto del fatto che sono corpi caldi, ad esempio un ferro incandescente diventa luminoso. Le onde radio vengono invece emesse da fenomeni cosiddetti non termici, che sono dovuti alla presenza di elettroni che si muovono a velocità della luce in campi magnetici. Quindi quando noi osserviamo queste onde radio che vengono dall'universo, sappiamo che ci sono delle zone in cui abbiamo degli elettroni velocissimi e dei campi magnetici. In particolare, quali zone del cielo state osservando in questi 25 anni? In particolare abbiamo osservato oggetti lontanissimi come le quasar, le radiogalassie, che i loro centri hanno dei buchi neri. La ragione di questo è dovuta al fatto che la possibilità di osservare grandi dettagli è legata alle dimensioni dello strumento con cui si va a osservare il cielo. L'antenna in sé è di 32 metri, ma utilizzata insieme a tutte le antenne della rete europea o anche mondiale, viene simulato un radiotelescopio enorme, grande quanto la Terra. Questo dà la possibilità di vedere dei dettagli elevatissimi, quindi andare a vedere oggetti molto lontani nella zona prossima al nucleo centrale, che contiene dei buchi neri. Ecco, e in questi 25 anni quali sono stati i risultati più importanti di questo consorzio internazionale? Un risultato molto molto importante che è stato ottenuto è stato quello di rivelare i cosiddetti moti superluminali, al di là del dettaglio insomma legato a questa fenomenologia nel quale non entro. Però pensate che in una quasar lontana da qui, un milione di anni luce, noi riusciamo a vedere le varie parti di questa quasar che si muovono. Parliamo di oggetti lontani milioni, miliardi di anni luce, arriviamo fino ai confini dell'universo, perlomeno ai primi oggetti che si sono formati. Cosa c'era dentro le creste dei dinosauri, che fra l'altro hanno come discendenti molti uccelli? C'è chi dice che pure le galline vengono da lì, lo sapete, le galline hanno le creste, però sono nelle galline accessori di, come potremmo dire, bellezza, utili nei galli, per esempio, nei rituali amorosi. Però anche i dinosauri avevano le creste. In quei tempi lontani, quelli del Giurassico, per esempio, quando al posto dei galli c'erano appunto questi animaletti di svariate tonnellate, sembra che le loro creste avessero una funzione ben più articolata. Sta studiando queste cose David Evans, che è un paleontologo canadese al Royal Ontario Museum e anche all'Università di Toronto, fa ricerca con il suo gruppo, e David Evans spiega che dalla forma del cervello si può dire molto su quale senso fosse importante nella vita quotidiana dei dinosauri, e lui si è appunto concentrato su questo rapporto che riguarda le creste e il cervello. La sua teoria è che le creste ossee dei dinosauri, in particolare quella di Corythosaurus, più comunemente chiamato Adrosauro, dicendo comunemente chiamato mi rendo conto come possa sembrare che gli adrosauri siano qui in mezzo a noi, che magari potrebbero far parte pure delle notizie sul traffico. Comunque queste creste del Corythosaurus sarebbero state utilizzate come mezzi di comunicazione, come strumenti di comunicazione. La formazione ossea delle creste, che contenevano lunghi e complicati passaggi nasali, delle anse, dei pieni e dei vuoti, questa formazione avrebbe consentito l'emissione di suoni simili a mugugni, e questi suoni sarebbero serviti per attirare i compagni o mettere in guardia i predatori. Studiando la conformazione del cranio e delle ossa si è riusciti a ricostruire a computer i possibili versi emessi da questi dinosauri specifici, quelli del Corythosaurus di cui vi dicevo prima, noto anche come dinosauro a becco d'anatra. Questi suoni sarebbero a basse frequenze e piuttosto gravi. Sono state eseguite anche delle TAC, la tomografia assiale computerizzata, per avere delle ricostruzioni dell'apparato uditivo dei dinosauri. Era un passaggio essenziale, infatti, perché formulando un'ipotesi sulle creste come emettitrici di segnali a bassa frequenza, era importante andare a vedere se l'apparato ricettivo era tale da poter percepire appunto queste basse frequenze. E così, infatti, è andata. La coincidenza si è verificata. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, dunque, fra un po' vi parlerò degli aspetti neurologici della testata di Zidane a Materazzi, ma adesso siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate di che si trattava? Bisognava che voi ci diceste Che cosa origina le fusa del gatto? Bene, leggo direttamente dal libro Il gatto a test di Giulia Bianconi, edito da Alfa Test. Le fusa rappresentano un vero mistero. Ecco, questa è la risposta. Non si sa, quindi non c'entrano le corde vocali e non c'entrano i muscoli pettorali. Come il gatto riesca a produrle queste fusa non è ancora chiaro. Alcuni sostengono che sono create dalla vibrazione di false corde vocali. Secondo altri studiosi dipendono da contrazioni sfasate di laringe e diaframma. Una terza ipotesi le attribuisce al flusso sanguigno turbolento della vena cava verso il cuore, però in sostanza non lo sappiamo ancora. Titolo: I neuroni specchio, autore Marco Iacoboni, che questa sera è qui con noi. Buonasera Iacoboni. Buonasera. Dunque, sto per parlarvi di un libro e di un insieme molto vasto e molto importante di ricerche intorno appunto a questo tema, i neuroni a specchio. Senta, per introdurre con una certa efficacia e immediatezza questo tema, prendo una parte del suo libro che lei ha dedicato a uno degli episodi che a noi italiani ci ha nei tempi recenti più assolutamente, come si può dire, commosso, stupefatto, eccitato. Le opinioni sono le più diverse. La famosa testata di Zidane a Materazzi nella finale dei campionati del mondo. Perché dobbiamo parlare di questa cosa, Iacoboni? Ma nel libro uso la testata di Zidane perché in effetti è un chiaro esempio di come i neuroni specchi possono farci immedesimare nelle emozioni altrui. Nel momento in cui milioni di persone osservano quella testata, provano le emozioni che Materazzi sta provando, il dolore che prova nel momento in cui viene colpito, anche la rabbia e la frustrazione. Come succede? Succede perché ci sono delle cellule nel nostro cervello che si attivano quando noi facciamo delle azioni, esprimiamo delle emozioni con la nostra faccia, quindi con i muscoli della nostra faccia, e anche quando vediamo altre persone fare le stesse azioni o esprimere le stesse emozioni. Quindi c'è un'immediata consapevolezza delle emozioni altrui, grazie al fatto che le stesse cellule che si attivano quando noi proviamo quelle emozioni si attivano quando vediamo altre persone provarle. Queste cellule sono i neuroni specchio, sono una scoperta italiana. Lei nella parte iniziale del libro dedica una certa attenzione al gruppo di italiani, Rizzolati e gli altri, no, che hanno proprio rivelato questa componente. Sì, assolutamente. Il gruppo di Rizzolati a Parma studiava cellule della porzione motoria del cervello della scimmia per capire meglio come il cervello controlla le nostre azioni. Mentre studiavano queste parti del cervello della scimmia, hanno scoperto in modo abbastanza sorprendente, all'inizio anche loro erano molto sorpresi perché nessuno si sarebbe aspettato che nel cervello dei primati ci fossero cellule di questo tipo che si attivano sia quando facciamo azioni sia quando vediamo altre persone fare le stesse azioni. E quindi è una scoperta che chiaramente loro hanno, è il loro merito ed è chiaramente un vanto italiano perché è considerata una scoperta fondamentale nelle neuroscienze. Dunque, quando si parla di neuroni si tende a mettere tutto insieme, i neuroni specchio invece non sono tutti, sono una componente dell'apparato neuronale. Sì, sono una porzione della parte motoria del nostro cervello. Okay. Il nostro cervello è diviso in tutta una serie di aree e nelle aree motorie che mandano segnali ai nostri muscoli ci sono una parte delle cellule motorie, sono chiamate specchio proprio perché rispondono anche quando noi siamo completamente immobili e guardiamo altre persone fare quelle stesse azioni che poi attivano i nostri neuroni quando noi facciamo le azioni. Li chiamiamo specchio perché mentre vediamo gli altri fare quelle azioni è come se vedessimo noi stessi riflessi in uno specchio. Ecco, senta, lei è dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, dove fa ricerca da tanto tempo, cioè proprio anche in questo momento io sto parlando con lei al telefono e mentre parlo gesticolo, muovo le mani, effettivamente mentre lo sto dicendo lo faccio, non c'è niente di più evidente. Le muoverei diversamente se lei fosse presente. Neuroni a specchio c'entrano anche con questo collegamento tra gestualità e parole, linguaggio? Sì, c'è un'ipotesi che intanto ci fa pensare che i neuroni specchio sono stati molto importanti nell'evoluzione del linguaggio, una specie di cellule che in qualche modo hanno facilitato l'evoluzione del linguaggio e la gestualità del linguaggio per la quale noi italiani siamo molto famosi, chiaramente è molto importante quando le persone parlano e comunicano, perché attraverso i gesti e osservando persone che ci parlano, anche con i loro gesti noi capiamo cosa vogliono dirci, ma in realtà infatti è abbastanza affascinante che noi gesticoliamo anche quando sappiamo che nessuno ci può vedere, e quindi in realtà c'è quest'idea che c'è una grossa connessione tra la gestualità e il linguaggio più classico, quello delle parole. E probabilmente i neuroni specchio sono molto importanti in questa forma di gestualità, perché appunto sono cellule che, attivandosi quando noi facciamo le azioni e quando vediamo altri fare le azioni, permettono una comunicazione immediata tra due persone che gesticolano e comunicano tra di loro. In un'altra parte del suo libro, che è intitolata Quelli che vanno matti per la politica, lei riesce anche qui a parlare di neuroni specchio. Come fa? Ma l'idea generale è appunto che queste cellule sono estremamente importanti per l'empatia, per la capacità di connettere emozionalmente con gli altri, identificarsi con gli altri. Ultimamente c'è un grosso movimento nelle scienze cognitive e nelle neuroscienze cognitive nel cercare di reinterpretare le decisioni umane non soltanto come dovute a scelte assolutamente razionali e fredde, ma anche appunto scelte che hanno a che fare con le nostre emozioni, con la capacità di identificare. In teoria ci piacerebbe pensare che le nostre scelte politiche sono assolutamente determinate da pura razionalità, ma molto spesso ci identifichiamo con i politici, quelli che andiamo a votare sono quelli che a noi piacciono, anche da un punto di vista molto emozionale. Le chiedo un'ultima cosa: per il lavoro che faccio sento tanta gente che lavora nel campo della ricerca, delle neuroscienze in particolare, della psicologia comportamentale in generale. Neuroni a specchio sono senz'altro una grossa scoperta, però si ha un po' la sensazione che ormai vengano tirati fuori in continuazione, insomma, c'è il rischio di un uso un po' inflattivo di questo concetto, di questa scoperta? Sì, in effetti c'è questo rischio, sono evocati per tutta una serie di fenomeni, ma c'è anche una ragione per la quale sono evocati per tutta una serie di fenomeni. La cosa fondamentale che questi neuroni fanno è decodificare le azioni altrui e mapparle sulle nostre azioni. Questo è un fatto che avviene tutte le volte che noi interagiamo con gli altri, perciò in qualche modo in effetti i neuroni specchio sono importanti in tutte le nostre interazioni sociali. Chiaramente bisogna chiarificare questo punto, perché altrimenti poi si ha l'impressione che veramente facciano tutto, e questa è una cosa che chiaramente è impossibile, anche perché ci sono altri tipi di cellule nel cervello. Senta Iacoboni, lei gesticolava adesso mentre mi parlava? Assolutamente sì. Assolutamente. No, perché mi stavo interrogando se uno che studia neuroni a specchio impara a non specchiarsi, ma non credo. No, anzi, ci si specchia ancora di più. Ce la fa. Grazie e buona ricerca. Grazie a lei. Dove saremmo oggi se non fosse stata inventata la bussola? Non saprei, tutto sarebbe molto diverso. La storia inizia da Amalfi, sentite Maurizio Menis. C'è una statua nella piazza centrale di Amalfi, raffigura un uomo che tiene in mano una bussola e la osserva con espressione assorta. L'incisione riporta un nome, Flavio Gioia, e gli amalfitani non hanno dubbi, è lui l'inventore della bussola. Ma di un Flavio Gioia nelle cronache del tempo, parliamo del XII secolo, non c'è alcuna traccia. A quell'epoca però, questo invece è certo, all'inizio quindi del 1200, iniziano ad apparire in Europa i primi riferimenti alla bussola, che per la fine del secolo sarà diffusa ovunque, pronta ad innescare una rivoluzione politica ed economica. Fu proprio Amalfi a trasformare la bussola in uno strumento di navigazione perfezionato, tecnologicamente avanzato. E infatti a questa invenzione corrispose un'era di grande sviluppo, potenza e prestigio per la città, al tempo delle repubbliche marinare. Gli amalfitani combinarono il magnete galleggiante con una rosa dei venti, dando alla bussola la capacità di indicare ogni direzione e non solo, quindi, l'asse nord-sud. Ciò aprì la strada alla navigazione invernale, prima impossibile nel Mediterraneo a causa dei lunghi periodi, insomma, di copertura nuvolosa. All'epoca i marinai utilizzavano gli astri per orientarsi, e fornì il sistema di riferimento, questa fu una seconda conseguenza, alla cartografia nautica, che diede ulteriore impulso alle tecniche di navigazione. La navigazione infatti ne fu sconvolta, così come i commerci e gli equilibri militari. Si aprì un'epoca di esplorazioni che proseguì per secoli e rotte terrestri utilizzate per millenni furono abbandonate a favore di rotte marine. Gli amalfitani, forse ansiosi di non perdere il primato della città per l'invenzione della bussola, nei secoli hanno elaborato forse una sorta di memoria collettiva che ha attribuito l'invenzione a Flavio Gioia. Insomma, hanno dato un volto, un nome al primato della loro città. O forse Flavio Gioia è esistito veramente? La questione, insomma, è controversa. Quello che invece è certo è che la bussola non fu inventata in Europa, anche se fu l'Europa, indubbiamente, a sfruttarla appieno. La bussola giunse in Europa in un momento imprecisato, all'inizio del secondo millennio d.C. Arrivò da Oriente per la via della seta, un viaggio lungo e pericoloso che durava anni, prima attraverso le sterminate pianure dell'Asia e le montagne del Caucaso e poi giù per il Mar Nero e per il Mar Mediterraneo. L'oggetto che causò l'abbandono di queste millenarie vie di comunicazione, insomma, giunse proprio per quelle stesse vie, una specie di paradosso. Allora aveva probabilmente però una forma diversa, la forma di un animale, forse un pesce o una tartaruga. Un pezzo di magnetite forgiato in questa forma, infatti, veniva lasciato galleggiare sulla superficie dell'acqua. Nella sua terra d'origine, la Cina, veniva infatti utilizzato già da più di 1000 anni, ma come oggetto cerimoniale nel culto del Feng Shui. E infatti doveva essere certo un oggetto magico perché indicava sempre il nord. Insomma, prima di giungere in Occidente, la bussola era stata utilizzata per oltre 1000 anni solo a scopo cerimoniale. In mare aperto lo scandaglio, che allora era il principale strumento di navigazione, non serviva. L'unico strumento di orientamento erano il sole e le stelle, ma nel Mediterraneo, d'inverno, il cielo poteva rimanere coperto per giorni e giorni e ciò, insomma, significava perdersi anche per i migliori marinai. In Oriente, invece, sulle acque dell'oceano, i venti sono estremamente regolari, tanto da funzionare, di fatto, proprio come bussola. Quella vera, perciò, non fu mai perfezionata. Nella storia delle innovazioni e dell'ingegno umano si incontrano spesso di queste schizofrenie. Il progresso, insomma, non è un percorso lineare. Le idee vengono perdute, ritrovate, declinate in forme nuove. E spesso la necessità, come recita un vecchio proverbio, aguzza l'ingegno. Ci sono delle notizie a volte che generano davvero strani pensieri e la sensazione che la fonte di tali notizie forse sarebbe meglio che lasciasse perdere, che non ci arrivassero, insomma, queste informazioni, ma poi invece è sempre meglio sapere, è sempre meglio. Allora, la notizia è questa: un certo numero di soldati del corpo dei Marines americani sarà dotato di un particolare elmetto. La particolarità sta in un insieme di sensori collocati all'interno del casco che potranno registrare l'intensità di ogni proiettile e spezzone che colpirà appunto l'elmetto. Conoscendo tale intensità, ecco, sarà possibile costruire modelli più resistenti. Appunto, probabilmente vi sarà venuto un lieve sospetto riassumere in questa domanda: come si potrà individuare a partire dai dati dei sensori quali impatti risultano più dannosi? Beh, c'è un solo modo, no? Accoppiare quei dati con le sorti di chi dentro l'elmetto ci metterà la testa. Se le cose gli andranno molto male, per esempio, si saprà esattamente a quale energia minima le sorti dello sventurato sono precipitate. Sarebbe interessante vedere la faccia di uno di quei ragazzi ai quali un superiore darà l'elmetto sperimentale. Mebius si chiude qui, ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata a tutti e a tutte.